situazione è stata che, nonostante la richiesta della forza pubblica, sono arrivati avvocati della parte, insomma, del tribunale, quindi con l'ufficiale giudiziario, particolarmente afflitti e disperati ormai rispetto al fatto che non facciamo prendere le misure, che non riescono a sbloccare questa situazione. E questa, hanno chiamato anche il 113 sperando in una chiamata immediata e che venga registrata ovviamente in via formale anche la richiesta dell'intervento del 113, però non sono arrivate neanche due volanti e questa cosa, neanche una. E questa cosa, noi eravamo abbastanza numerose lì davanti, insomma, hanno provato a chiedere che se per favore gli permettevamo di prendere le misure dentro della sede del 22. Abbiamo ribadito che, essendo questo l'appiglio per il quale non riescono a mettere all'asta la nostra sede, non capivamo per quale motivo dovevamo fare questa grande concessione a loro. E quindi, diciamo, c'era anche la presenza del fabbro, hanno spiegato che progressivamente aumenteranno i personaggi e quindi anche la polizia interverrà, però per questa volta non ce l'hanno fatta a convincere la forza pubblica a venire a prendere queste benedette misure al 22 e hanno dato un rinvio al 12 marzo. Confermando che, insomma, questa situazione deve essere chiusa, deve essere sbloccata. E quindi poi, insomma, nei prossimi giorni, settimane, daremo anche comunicazioni di iniziative di come ci vogliamo organizzare il 12 marzo. Diciamo che, nonostante la pioggia e il freddo, però è stata abbastanza ilare e divertente la situazione stamattina. Sì. Perché abbiamo, insomma, sono stati sfottuti a destra e a sinistra, pur non essendo la controparte in fondo, perché non so neanche la proprietà. Però, diciamo, qualche simpatica soddisfazione alla fine ci è uscita fuori. E quindi non so. Praticamente chi c'era? C'era l'ufficiale giudiziario, gli avvocati, c'è di mezzo adesso questa società di recupero crediti. Ma la società del recupero crediti, che è la controparte effettiva ormai che ha recuperato e quindi che ha recuperato e che vuole mettere all'asta per recuperare il credito, in realtà non è mai presente agli accessi. Sì, si serve del tribunale per... E quindi in realtà quelli che vengono là sono gli avvocati che difendono parte del tribunale, che ha la custodia su questi locali e che li vuole mettere all'asta. E quindi, insomma, è l'ufficiale giudiziario, per cui... sono abbastanza stremati dal fatto che ogni mese devono venire davanti al 22. Sì, questa volta, insomma, c'era stata un rincaramento della dose proprio perché si era ventilato, minacciata, insomma, l'intervento della forza pubblica. Diciamo che questa volta è venuto in più il fabbro, ci hanno promesso che dalla prossima ci sarà uno sbirro in più, dalla prossima ancora un altro sbirro in più, insomma, così piano piano crescendo, sì. Ma noi contiamo di arrivare al numero 30, accesso numero 30, con un grande party, perché loro su questa via saranno più o meno altri 5, 6 massimo in più, non di più, no? Quindi, insomma, saremo sempre di più noi e sarà divertente, ancora di più di stamattina probabilmente. Beh, insomma, vedo che la prendete comunque con lo spirito giusto, anche perché prima dicevamo chiaramente, visto che siamo arrivati a quota 24, si tratta di un percorso abbastanza sfiancante, ma viene l'idea di pensare, insomma, che stia diventando più sfibrante ancora per loro, insomma, che ancora non vogliono arrendersi, ma insomma, probabilmente se andrà avanti ancora così, forse ci penseranno. Sì, forse sì, noi saltelliamo sul loro sistema nervoso e vediamo, magari stiamo anche puntando a fargli acquisire una coscienza politica al riguardo. E abbiamo proposto che dalla prossima volta potrebbero scioperare e, qualora fossero, che hanno detto? Perché possono essere querelati. Querelati, noi li sosterremo politicamente nello sciopero, insomma. Vabbè. Beh, e ci siamo anche accertate che il fabbro verrà pagato anche se non ha sfondato sì. la porta. Beh, sì, questo ci abbiamo tenuto a. Sì. Questo è un punto chiaramente sul quale non si poteva cedere. Certo. No. Benissimo, va bene. Allora, qual è il prossimo a marzo? Hanno detto che si rifanno vivi. Il 12 marzo, che vabbè, ancora ci sta il solito mesetto, insomma, per preparare la 25esima colazione resistente, i femministe e lesbiche allo spazio del 22 di Via dei Volsci. Grazie e alla prossima. Ciao, ciao, ciao.